17. La comparsa dei turbogetti a TAR. Quasi simultaneamente, alla fine degli anni 30, il tedesco Hans von Hain e l'inglese Frank Worrell svilupparono un motore a combustione, il turbogetto. Tuttavia, fu necessario attendere la fine della Seconda Guerra Mondiale perché il costruttore Junker, poi BMW, riprendesse in Germania lo sviluppo del motore di von Hain, mentre Rolls-Royce proseguiva quello di Whittle. I tedeschi furono i primi a produrre turbogetti. Nel 1945, lo Stato francese riuscì a convincere l'ingegnere tedesco Hermann Estrich, che aveva sviluppato il turbogetto BMW, a lavorare allo sviluppo di questa tecnologia in Francia. Il dottor Estrich e il suo team, composto da circa un centinaio di persone, furono installati nel sud della Germania, a Lindau-Rickenbach, una zona allora sotto controllo francese. Nacque così l'Atelier Technique Aeronautique de Rickenbach. Le sue iniziali, ATAR, furono attribuite al progetto di turbogetto in fase di studio. Denominato Gruppo O, il team del dottor Estrich fu successivamente trasferito nella Nièvre, all'interno della società Voisin, all'epoca filiale della Snecma. Il Gruppo O fu presto affiancato da giovani ingegneri francesi. Nel 1950 si stabilì qui, a Villaroche, dove fu integrato nella Snecma e il dottor Estrich ne divenne il direttore tecnico.